Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando mari di ai microfoni. Sono molto contenta perché ho un autore alle prese col primo romanzo, quindi sapete che ho una particolare predizione, soprattutto per i primi romanzi, perché secondo me lì si vedono tante cose e si capiscono tante cose di un autore. Quindi siamo reduci da una presentazione in libreria, quindi non ce ne vogliate se le nostre voci sono un po' più stanche del solito. Sono in compagnia di Dario De Serri, che... Dario, benvenuto. Buonasera, io sono Dario De Serri, sono qui, ho presentato questa sera il mio, come dire, libro d'esordio, romanzo d'esordio, che si chiama Come l'umnuvole sopra Berlino. È stata una bella esperienza, una bella chiacchierata. Con molto pubblico, il che è... Con molto pubblico. Possiamo dirlo, è un elemento... Buon vino, cibo, bell'ambiente. Siamo stati bene. Ambiente ideale per presentare il libro. Allora Dario, vorrei che ti presentassi un po' ai nostri amici all'ascolto. Quindi ti faccio una di quelle domande a cui sono molto affezionata. Come nasce la tua passione per la scrittura? Dunque, la mia passione per la scrittura è nata semplicemente iscrivendomi ad un'associazione letteraria della città in cui ho vissuto fino a qualche anno fa, che è Ferrara, in cui sono nato, principalmente perché ero un amante della lettura, e dopodiché, così riscoprendo un pochino i testi poetici che ho sempre scritto, diari e cose di questo tipo, e allenandomi un pochino, mi ha fatto scoprire una nuova passione che poi è diventata anche più grande. Ho cominciato a scrivere quotidianamente, ho partecipato a qualche concorso, la presidente dell'associazione ha visto qualcosa in me, mi ha spinto sempre ad andare avanti in questi anni e sono arrivato a questa pubblicazione. Ecco, però ho cominciato abbastanza tardi, perché io avevo già più di 20 anni, avevo già finito l'università quando ho cominciato a scrivere, anzi appena finito. Beh, non è mai troppo tardi, soprattutto quando i risultati poi sono eccellenti, così come questo tuo romanzo. Come le nuvole sopra Berlino è un racconto scritto intorno ad una raccolta di poesie senza autore. C'è questa copertina rossa, no? Che poi magari fa pensare tante altre cose, che viene così riscoperto per caso da una delle protagoniste. Quindi questo libretto diviene inconsapevolmente protagonista dell'intreccio di più storie che si raccontano nel tuo romanzo. Quindi come nasce Le nuvole sopra Berlino? Ecco, dunque, Come le nuvole sopra Berlino nasce essenzialmente come raccolta poetica all'inizio. Cioè, io avevo dei coetanei che avevano la passione per la letteratura in associazione, ci ritrovavamo per mangiare, per bere, come abbiamo fatto questa sera, e si parlava, insomma, ci si confronta, si parla di temi letterari, di poesia, di quello che si scrive e quello che non si scrive. E a un certo punto ho avuto un numero sufficiente di testi che poteva essere pubblicato, anche una piccola casa editrice, e da lì è nata l'idea di Come nuvole. Poi dopo, naturalmente, i testi sono diventati un po' meno, perché poi ho dovuto selezionarli in funzione della storia che è nata successivamente, e sono rimaste queste sezioni che descrivono appunto una specie di, un po' le nuvole rappresentano gli uomini, in questo caso attraverso la lettura praticamente si cresce, si ripulisce di quella che è la bruttura, le difficoltà della vita, e come dire, si va alla ricerca di quello che è il significato della nostra esistenza, ci costringono ad analizzare quello che ci succede, magari un po' più nel dettaglio, un po' più nell'intimo, in modo da capire il motivo per cui, se mai ce ne fosse uno, il motivo per cui siamo a questo mondo, insomma, il motivo per cui viviamo, le nostre passioni. I protagonisti del tuo romanzo sono diversi, sono molteplici. Partiamo con le due coppie, le due protagoniste principali. Crei queste due coppie in antitesi l'una con l'altro. Tanto l'una è spregiudicata e libera, tanto l'altra invece vive piuttosto di restrizioni, o comunque vive legata ad un codice, magari non scritto, ma che si consolida nella consuetudine e anche nell'abitudine, che diventa anche un'abitudine di amare. Come mai questa scelta? Come mai creare questo contrasto così forte? Dunque, l'intento era sempre quello come per la raccolta poetica, era quello di mettere di fronte ai personaggi principali di questa storia alle proprie contraddizioni. Noi molto spesso ci sono luoghi peggiori al mondo, diciamo in un contesto occidentale o europeo, come vogliamo chiamarlo, siamo più o meno liberi, ci definiamo liberi, però comunque dobbiamo fare i conti molto spesso con dei contrasti, con delle contraddizioni, sia nella nostra vita privata che nella nostra vita sociale e pubblica. Berlino mi è sembrato un contesto ideale perché comunque mette a confronto realtà completamente diverse, per estrazione culturale, sociale, politica, nazionale e quant'altro. Quindi ho cercato di, appunto, creare questi quattro personaggi che invitassero il lettore a porsi delle domande su quella che è la nostra vita quotidiana, sulle nostre scelte, sull'amore, sulla libertà, sulla carriera, sulla famiglia, le nostre passioni. Ecco, quello che volevo dire era appunto che molto spesso ci ritroviamo a fare cose che noi non abbiamo scelto, che molto spesso non ci piacciono, eppure dobbiamo farle lo stesso, sembra che ci sia qualcuno che ci obbliga, in realtà non ci obbliga nessuno se non noi stessi. Questo è quello che salta fuori da questo libro. Non solo, però poi quel discorso narrativo di cui tu stavi parlando viene, tra virgolette, se vuoi, non alterato, ma comunque trova degli elementi di ispirazione, se vuoi, da un lato nel libretto rosso, che rappresenta la La poesia, poesia. quindi la poesia che apre le porte probabilmente a strade che i protagonisti avevano deciso di non percorrere, almeno una parte di loro. E poi c'è la figura di quest'altra donna, DJ Domino, che invece si diverte un po' a Scombinare. rimescolare le carte in gioco. Vogliamo parlare prima della poesia e poi di questo personaggio femminile? Certo. Allora, la poesia, come dicevo, è strutturata in un modo tale per cui la prima parte, diciamo le poesie, c'è circa un 20% del testo è composto di testi poetici e sono principalmente concentrati in alcuni capitoli, se non ricordo male, il 2, il secondo, il quarto, il nono e un pezzettino del decimo. Diciamo, come dire, la poesia viene comunicata in questo libro attraverso la lettura di questi diversi personaggi. Prima inizia Albertine, poi c'è la lettura di Fridolin, poi di Plato e solo alla fine alcuni testi recitati a memoria da Serena. Questo è l'ambiente ideale di un simposio. Questi sono amici che in realtà si ritrovano al compleanno il 21 di marzo, quindi un giorno Un giorno simbolico di simbolico. rinascita, al compleanno di Serena. E per caso Albertine, riscoprendo, estraendo questo libro e leggendone un pezzo ad alta voce, si ritrovano a vivere un vero e proprio simposio alla greca, quindi un luogo più appartato, più intimo di questo grande appartamento in cui c'è il caos e regna la musica, loro si ritrovano a parlare del tema dell'amore, così come succede a Socrate, Agatone, Aristofane nel loro simposio. Questa è una versione più moderna, più attuale, fatta di persone non particolarmente intellettuali o da ricordare per i loro studi, ma che invece, come dire, riscoprono quella che è un tema che invece forse non è ancora. Noi affrontiamo tanto il tema della sessualità al giorno d'oggi, oggi è stato tutto sdoganato, però sembra che in qualche modo l'amore non abbia più a che fare con i sentimenti, ma solo come dire, con delle forme di contratto, di rapporti molto, molto, molto freddi, quando in realtà invece forse il problema delle coppie al giorno d'oggi, sposate o meno, col matrimonio o senza, quello ha poca importanza, ma forse il problema è proprio la comunicazione. A volte Non ci si parla non più. Poi si parla abbastanza, o forse si parla in linguaggi che forse non comprendiamo più. si cambia, no? Poi si cambia, noi cresciamo con questa idea che l'amore è per sempre. Io non credo che l'amore nella forma di un rapporto di coppia sia per sempre. L'amore è eterno come sentimento, ma non è detto che debba essere passato per chi ha la fortuna di vivere una lunga vita sempre con la stessa persona. E non deve essere visto come un dramma enorme, semplicemente si evolve. io faccio vedere determinate situazioni che forse possono sembrare strane o paradossali, ma che in realtà in altre culture sono anche vissute, non dico in modo normale, ma sicuramente in modo meno estremo che quello passionale e estremo italiano, ecco. C'è una frase molto bella che vorrei ricordare anche agli amici che ci stanno ascoltando. Vivere amando non è che amare vivendo. Chiaramente un gioco di parole, però penso che ci sia qualcosa di più di un gioco di parole. Sì, questo naturalmente è una delle parti poetiche. Lungo il testo ci sono ogni tanto appunto delle frasi che inizialmente erano in prosa e che poi invece sono diventate una specie di decoro lungo il testo, lungo la storia, diciamo, l'evolversi della storia. E in questo caso era funzionale a un momento in cui ci si confronta sul tema dell'amore e c'è un confronto anche abbastanza diretto fra Plato e Albertine e come dire, c'è sempre questo contrasto fra il seguire una vita legata esclusivamente a quella che sono i propri desideri e a quello che piace veramente e che ci fa, come dire, muovere anche quando magari non è molto conveniente o quando non porta uno stipendio megagalattico, e invece quelle che sono le scelte un po' obbligate, quelle pratiche, quelle molto più razionali di Albertine, che ha fatto una carriera, non dico in quale professione perché alla fine non è importante, però ha fatto delle scelte, degli studi che erano già tutti prestabiliti dalle generazioni precedenti e si è dimenticata di quelle che erano le sue passioni. Lei poi si capirà nella storia, anche lei scritto diari, scritto poesie, che a un certo punto ha semplicemente dimenticato in favore della sua carriera, della vita razionale, della vita stressante della grande città, della grande metropoli. È comunque benestante, perché è una persona di successo, è totalmente indipendente, una donna emancipata, libera, che può decidere indipendentemente dal compagno che ha, ha soldi, ha potere, però le manca ancora qualcosa che verrà invece riscoperto nel corso del libro, e questo non significa necessariamente trovare l'amore o essere felici. Assolutamente, anche perché poi il percorso di Albertine è, penso, un percorso comune, non solo alle donne comunque in questo caso, no, quello che credo, descrive è un sentimento comunque, a mio avviso, in comune anche con voi maschietti. Sì. Allora, veniamo alle tue donne, a queste tre protagoniste. Abbiamo un po' parlato en passant di Albertine, che poi è un personaggio principale, e poi accanto ad Albertine hai costruito altri due personaggi. Da un lato Serena, che è l'organizzatrice della festa italiana, e dall'altra invece Alessandra, che di professione è anche Alexandra, scusami, è vero la pronuncia alla tedesca, che di professione è anche DJ. Hai creato però da un lato due, almeno questa è la mia opinione, due amiche, partiamo da questo punto di vista, che è la loro amicizia, ma due persone complementari che quindi forse tendono a ricercarsi proprio in virtù di questa complementarità. Però c'è poi una grande amicizia anche tra Serena e Alexandra, eh? Esatto. Solo che sono Alexandra e poi Albertine che non sono amiche. Che non, insomma, questo gioco insomma non ritorna tra Albertine e Alexandra. Perché penso avvenga, non è detto che poi se siamo amici di Alexandra qualcuno poi si sia necessariamente amici di un altro. Ci sono, certo, sintonie, secondo me, poi simbiosi che non avvengono allo stesso modo. Esattamente. Però la mia curiosità è la seguente: perché hai voluto inserire in maniera così forte, in maniera così dirompente, la figura di Alexandra, che è poi la figura, se vuoi, più forte tra le tre donne? Poi c'è una gradualità anche nella descrizione rispetto a Serena e ancor meno poi con Albertine. Beh, dunque, Alexandra io la definirei, perché in questo senso abbiamo a che fare con tre donne che sono molto forti, tutte e tre. Io direi che Alexandra è sicuramente la più estrema. E ho cercato di creare tre stereotipi, tre possibilità, poi è chiaro che il libro si focalizza su determinati come dire, caratteri, atteggiamenti, poi la vita è molto più complessa, la vita reale. Io però volevo tre figure femminili possibili nella società moderna di oggi occidentale. E allora abbiamo una persona più razionale, più pratica, in questo senso anche molto tedesca, che fa delle scelte ragionando semplicemente su quello che conviene per adattarsi al meglio ed avere successo nel proprio contesto. Si è dimenticata un pochino della sua intimità. In qualche modo è così estrema anche lei da avere in qualche modo anche paura di sistemarsi, di arrivare a creare una famiglia. Ci sarà un contrasto con il suo compagno che è nel libro, lei rimanda continuamente per l'esigenza di carriera, rimanda continuamente la maternità, mentre il marito, paradossalmente, adesso sono gli uomini che chiedono di avere figli e di mettere su famiglia, lei è resistente. L'altra è il suo polo opposto, l'italiana serena è esuberante, è sexy, è sempre molto femminile, piace agli uomini e ha questa solarità che in qualche modo è invidiata da Serena, per cui anche nel momento in cui ha atteggiamenti molto liberi, molto emancipati, in una società che è ancora molto maschilista, e la Germania non è assolutamente da meno all'Italia in questo, è comunque molto apprezzata. Mentre lei si riconosce timida, introversa e molto spesso non capita, pur avendo invece seguito tutti gli schemi e tutte le regole, quindi c'è questo contrasto. Dopodiché c'è la figura, il Jolly, che invece è questa Alexandra, che naturalmente si capisce con Serena perché Serena è la via di mezzo, è quella che è stata fra i due mondi, quello più estremo razionale e quello più estremo invece aggressivo e contro una società che è ancora molto in favore degli uomini più che delle donne. E lei sta nel mezzo, quindi si comunica molto più facilmente con Alexandra, mentre fra Serena e Albertine è un contrasto linguistico anche, cioè hanno un modo di vivere che è completamente opposto e quindi non possono comunicare, non possono capirsi. Serena è nel mezzo, invece addirittura rimane affascinata da questa amicizia molto particolare, che addirittura non è solo una DJ, ma questa si è formata nella musica classica, è una vera e propria professionista della musica e che per fare un favore a questa amica nel suo compleanno organizza una specie di party a base di musica elettronica. Ecco, lì bisogna capire un po' il contesto berlinese che, certo, che è fatto poi di musica di un certo tipo nei club. E lei è una DJ che passa indistintamente, come dice, da Bach e Mozart alle jam session dei club di tendenza, più o meno vestita, ed è appunto una figura camaleontica che a me serviva per utilizzarla sia nei rapporti con Serena che con Alexandra in modo abbastanza, come dire, dirompente, certo, ecco, per creare un contrasto che inducesse in questo caso non tanto i personaggi ma il lettore a riflettere, a porsi delle domande. Veniamo invece ai tuoi protagonisti maschili, perché se è vero che con i personaggi femminili riesci a creare caratteri dirompenti, non credo, ma probabilmente c'è un motivo per questo, questi caratteri maschili emergono così come emergono Serena, Alessandra e Albertine. Sì. Questa interpretazione è quello che tu volevi? Sì. Io come poi abbiamo un pochino detto anche durante la presentazione, gli uomini in questo caso non sono attivi, cioè non volevo creare naturalmente dei personaggi secondari, personaggi cameo, perché bene o male viviamo comunque in un contesto che è ancora molto maschile, uh-huh. La donna si è emancipata, la donna ha una sua libertà, però è vero che esistono ancora dei conflitti, perché esistono ineguaglianze nella carriera, nella vita privata, nelle scelte che siamo obbligati a fare che gli uomini ancora non hanno, nella libertà stessa. Uh-huh. Un uomo che è deliberatamente e apertamente trasgressivo come Alexandra, il più delle volte non è giudicato, mentre una donna può fare anche molto meno e invece viene subito messa sotto l'obiettivo, sotto la lente anche dei più minimi, nei più minimi comportamenti e nelle scelte della vita. Quindi ho cercato di creare lo stesso contesto, cioè gli uomini hanno un atteggiamento un pochino più passivo, quindi stanno a guardare quello che le donne cercano di fare in questa storia o di capire, proprio perché in realtà la libertà l'hanno sempre avuta. Mentre è un po' come succedeva a chi fa storia romana, ci sono i senatori e i cavalieri arrivano al senato combattendo, andando in battaglia, andando ai margini dell'impero, i senatori sono là perché sono figli di quello che c'era prima, hanno il nonno che era già in senato, è un po' il ruolo, l'homo novus, ecco, della nostra società è la donna in qualche modo, e quindi ha un ruolo che è molto molto più interessante perché deve dimostrare di più. Rispetto, e deve anche capire qual è la libertà, secondo me, perché le donne in modo molto facile al giorno d'oggi cercano di vivere la libertà come lo fanno gli uomini, invece secondo me devono necessariamente, adesso magari ci vorrà qualche generazione, devono trovare la loro via, il loro modo di essere libere, non semplicemente imitando quello che ha sempre fatto l'uomo. Purtroppo su questo punto sono d'accordo con te, e questo è visibile soprattutto in grandi città, e Bruxelles chiaramente ne è un buon esempio, in cui io credo che una vera identità femminile oggi non esista. Sì, ma non credo sia una colpa né degli No, uomini né delle assolutamente, è un donne, processo. credo, esatto, credo che È noi siamo, un'evoluzione, esattamente, è un hanno processo. bisogno di, non so, parliamo in termini calcistici, è molto più facile vincere per la Juventus o per il Real Madrid che per No, una è un squadra sconosciuta di processo. provincia. Però è importante sottolinearlo, perché questa ricerca di identità, che oggi può apparire confusa per le donne stesse, che si manifesta poi ad una tarda età, e secondo me Tine, Albertini, il tuo protagonista, se ne rende conto ad un A un certo certo punto punto. È della il sua vita, limite, è il giovane, limite. ma non più così giovane, ha già un po' di esperienza. Esatto, quindi insomma, mentre Serena poi la vive diversamente, invece Albertini, insomma, pure su questo poi c'è un elemento, se vuoi, di differenza nei due protagonisti. Beh, Serena ha fatto un incontro anche lei, però, semplicemente per il caso, per il destino, l'ha fatto prima. Anche lei ha conosciuto determinati tipi di libertà, di gradi di coscienza, soprattutto perché ha avuto nel compagno questa specie di trascinatore che le ha permesso E di trovare di poi essere se l'equilibrio, quindi stessa, di questo trovare Plato, l'equilibrio. cui nome Con un pure. altro uomo probabilmente non sarebbe riuscita ad essere se stessa fino in fondo. Assolutamente. Però restiamo sui due protagonisti femminili. E questo è il sesto protagonista, cioè Berlino, La città, la certo. città che tu definisci femmina. Spaventa e attrae allo stesso identico modo. Certo. Quanto Berlino ha influenzato la scrittura di questo tuo romanzo? Perché è presente un po' dappertutto lungo la storia. Dunque, la storia è stata determinante perché dunque, la parte in prosa è nata nella città di Berlino, nel senso che io ero già partito e vivevo già stabilmente in Germania quando ho aggiunto la parte in prosa. E quindi credo che sarebbe stato un libro completamente diverso se io non avessi fatto questo cambio. La città di Berlino in questo caso credo sia stata, come dire, il miglior esempio di quello che io volevo mostrare. È una città che nel bene o nel male costringe le diverse culture, i diversi individui a confrontarsi con proprio elementi basilari della nostra esistenza diversi da quelli che ci hanno insegnato. Quindi o si ha la possibilità e la curiosità di capire perché questi altri individui che vivono con me nello stesso luogo hanno fatto scelte diverse rispetto alle mie, ma che magari hanno la stessa identica meta, e invece chi è più simile a me. E quindi in questo caso, siccome questi personaggi si confrontano esattamente su questo, mi è sembrato che così. Essendo una città molto frittante, molto evanescente, molto di moda anche in questi ultimi anni, e con una storia invece tragica, fatta di dittature in realtà, poi è stata completamente distrutta Distrutta, diverse certo. volte, non è una città che è nata anche lì, ha una storia anche antica molto, molto diversa dalle altre, perché non ha un vero e proprio centro storico, come siamo abituati a pensare noi in Italia, è nata dalla riunione degli Hohenzollern, che erano la dinastia prussiana, che viveva però a Potsdam, e che ha semplicemente creato la Berlino celebrativa e riunito dei villaggi di cui uno di quelli si chiamava Berlino, se non ricordo male, e poi è diventata la città, la metropoli moderna di oggi, quindi tuttora restano le tracce urbanistiche di questa attività, cioè non c'è un vero e proprio centro storico, cioè, non solo ci sono Berlino Est e Berlino Ovest con le due piazze principali, ma ci sono proprio le realtà di tutti i diversi distretti che hanno una loro piazza, un loro centro, un loro mercato, addirittura una loro cultura, perché alcuni sono distretti in cui l'80% delle persone sono turchi, Certo. quindi è un grande melting pot che mi è sembrato il set ideale per questa storia. Ecco. Purtroppo, come sai, il tempo in radio è oltremodo tiranno Ristretto. e quindi purtroppo devo andare verso la fine, però c'è un altro protagonista, anche se non è probabilmente chiaro, ma sono le nuvole. Le nuvole. Sono i lettori in realtà. Ecco. Questa era una cosa che invece è proprio nata subito, quando ancora avevo in mente solo la raccolta poetica. Dopo sono stati tolti molti testi, la raccolta è stata più limitata e resa funzionale alla storia, però in qualche modo è rimasta la struttura delle nuvole. Quindi io... È molto bello il gioco che fai con le nuvole, perché poi c'è un significato preciso. C'è un significato preciso, poi noi un po' in modo dantesco siamo anche sottoposti alla meteorologia, al vento, alle intemperie nella vita, ai tempi invece in cui c'è il sole, c'è un tempo più sereno e altri un po' più duri. Però ecco, mi sembrava anche ideale usare questi termini meteorologici per descrivere una specie di catarsi di questi personaggi, in particolare di Albertine, che è quella che farà più strada in questo libro, tra virgolette, e quindi anche chi legge si ritrova appunto dei testi un po' più scuri, un po' più negativi, un po' più lugubri nella parte iniziale, e poi invece finisce con testi più positivi e più leggeri, tra virgolette, nelle parti più alte del cielo, che è i cirri, che sono poi le ultime poesie addirittura recitate a memoria da Serena. Ahimè, siamo alla fine, Dario. C'è qualcosa che vorresti aggiungere, un saluto, un messaggio che vorresti indirizzare ai microfoni di Radio Alma e Borsellando? Beh, io ringrazio te per la bellissima serata, intanto. È stata una bella chiacchierata. E niente, qui è stata una bella esperienza. Bruxelles è una città che avevo visto solo brevemente prima, però mi ha messo la curiosità di conoscere una nuova città, una nuova Berlino probabilmente, quindi tornerò volentieri. E io vorrei salutare, colgo l'occasione per salutare Roberto Pazzi, che pure è stato più volte ospite a Bruxellando, che scopro sapere essere uno dei tuoi maestri, quindi a Roberto Pazzi vanno anche i saluti di Maridì di Radio Alma e Bruxellando. Ti porterò i saluti molto molto volentieri. Grazie Dario, in bocca al lupo e a presto. A presto, buona serata, arrivederci. Eccoci ritornati in studio, cari amici di Bruxellando. Insomma, Pasqua è passata. Passata la festa, si dice gabbato lusant, si dice che in Italia abbia piovuto un po' dovunque, un po' di qui. Sì, a Bologna per un giorno e mezzo. Ecco, allora un po' di qui, un po' di là abbia piovuto, qui invece a Bruxelles ci ha lasciato almeno per due giorni, diciamo, un giorno un po' freddo, nuvoloso, ma anche un bel giorno di sole, e quindi insomma siamo stati anche abbastanza fortunati, noi poveretti che siamo rimasti qui a presidiare... in trincea, a presidiare il posto, a controllare che non ci fossero nemici. Quali nemici? Non ci sono nemici per il momento, ma almeno il nemico tempo sì, e quindi abbiamo presidiato, il nemico tempo c'è stato lontano, ci ha lasciato il sole, bello. Però, c'è un però, la settimana scorsa è successo qualcosa, perché martedì è ancora marzo e poi invece oggi siamo al 7 di aprile, o sbaglio? Eh sì, abbiamo fatto il salto nel nuovo mese, che comincia comunque questo mese comincia con il primo di aprile. Eh sì, in effetti il mese di aprile comincia pesciasto d'aprile. Sì, comincia col primo di aprile, giusto? Veramente anche marzo comincia col primo di marzo, eppure febbraio col primo di febbraio, non capisco il nesso. Sì, ma primo maggio è festivo pure, addirittura. Esatto, però l'importante del primo aprile è il divertimento dei pesci di aprile e l'incredibile inventività della gente nel coniare delle storie che comunque partono dalla realtà, possono essere verosimili, ma non lo sono. E quindi sì, in effetti, quando ero piccino ci divertivamo che abbiamo bene ad attaccare il pesce d'aprile sulla schiena di qualcuno, dandogli il pacco sulla spalla, di nascosto, e quindi non girava col pesce d'aprile dietro. Però l'origine del pesce d'aprile, io devo confessarvela, non la conosco. Neanche io. A Giorgio, se non lo sai te, siamo messi male. Siamo messi male proprio, perché qua... È vero, non lo so nemmeno io, non me la sono neanche mai chiesto, francamente. Adesso lo chiediamo al nostro regista di trovarci qualche informazione sul pesce d'aprile. Mi attivo. Ma noi invece abbiamo provato una sorpresa in diretta, speriamo che vi diverta, che vi rinfranchi, vi dia una smossa, anche perché insomma la primavera è ufficialmente iniziata qualche giorno fa e forse comincia a vedersi anche a Bruxelles. Chi lo sa? E allora prego la regia di mandare in onda l'inizio di questo piccolo cosino, scherzetto, che abbiamo preparato per voi. Benvenuti a TG Bruxellando, Affari Interni. Dopo rapide ma intense negoziazioni, la Commissione europea ha concluso un accordo rivoluzionario con la Regione di Bruxelles e con il governo federale belga. D'ora in poi la Commissione si occuperà della raccolta dei rifiuti brussellesi. Jean-Claude Juncker, il Presidente del Consiglio, ha proposto questa soluzione, adirato alla notizia che i servizi sarebbero stati ridotti a una raccolta settimana in base al nuovo piano del ministro competente bruxellese. Oltre che dal cambiamento d'umore temporaneo, la proposta scaturisce dalla confusione causata dai cambiamenti incessanti sui giorni di raccolta dei rifiuti, sull'ammasso di rifiuti attorno ai punti di raccolta svuotati troppo di rado. Questo avrebbe un impatto negativo sulle istituzioni europee, agli occhi dei numerosi visitatori stranieri. La misura aiuterebbe anche a contrastare l'immagine negativa degli eurocrati agli occhi della popolazione locale, che li ritiene una elite sprezzante, che non paga tasse ma si lamenta del livello dei servizi pubblici. Il piano dettagliato sarà rivelato alla conferenza sul clima dell'ONU a Parigi il 30 novembre. Economia. Dopo diversi rumors è arrivata la conferma. La Fiat Uno ritornerà sul mercato. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato del gruppo FCA, Sergio Marchionne, che con il ritorno della berlina vuole dare nuovo slancio al marchio Fiat. Riporteremo la Duna in Italia e la metteremo in vendita il 23 gennaio del 2017 per festeggiare i 30 anni dall'evento e cancellare una fama ingiusta. La Duna infatti è stata messa sul mercato proprio in quel giorno, nel 1987, ed è rimasta in produzione fino al 1991. A distanza di 3 decenni, l'obiettivo di Marchionne è di cancellare l'eredità che questa macchina si è portata negli anni e che ancora scatena le battute più pesanti. Affari internazionali. Oggi la Commissione europea ha contattato il governo degli Stati Uniti per fermare immediatamente le discussioni sulla partnership transatlantica sul commercio e l'investimento, il cosiddetto TTIP. La decisione unilaterale dell'esecutivo europeo è di immediato effetto e non sono previste altre negoziazioni. Annunciando la decisione, Jean-Claude Juncker ha detto: «Questa è una decisione che farà la storia della democrazia europea. Il popolo ha parlato e ha chiaramente detto di non volere questo accordo, indipendentemente da come abbiamo provato a venderglielo. Vogliamo che la Commissione ascolti i suoi cittadini. I nostri amici americani, che rimarranno nostri amici, dovranno capire. Siamo la Commissione del popolo, attraverso il popolo e per il popolo. Il popolo europeo non ci è cascato che l'accordo portasse vantaggi a loro e all'economia europea. È per il meglio. Adesso cominceremo a valutare delle negoziazioni ancora meno trasparenti con i nostri amici dell'altra sponda e inventeremo un nome ancora più arcano per le negoziazioni, un acronimo impenetrabile, e vedremo se questa volta ce la faremo. E adesso la zoologia. I dragoni torneranno come conseguenza del cambiamento climatico, lo dice la prestigiosa rivista Nature, che ha dedicato anni di ricerca al fenomeno finora passato inosservato. Bisogna prepararsi rileggendo le fonti storiche, dalla letteratura greca agli scritti zoroastici e ai trattati medievali. I dragoni in effetti non sono estinti, coesistono con noi, ma non li vediamo grazie a pratiche magiche ancora in vigore dai tempi del Medioevo. L'umanità avrebbe potuto continuare nella sua ignoranza circa la loro esistenza se non fosse stato per una combinazione di eventi negli ultimi decenni. Prima di tutto, la crisi economica ha fatto scattare ricerche più intense per tesori nascosti. I dragoni prediligono questi luoghi per il loro riposo. Il furto dei tesori probabilmente provocherà ritorsioni da parte loro. Il blocco magico della coscienza umana sul fenomeno sta fallendo. questo è dovuto parzialmente al manoscritto scientifico sui dragoni della rivista Nature, ma anche a politiche sbagliate, come il numero senza precedenti di nuovi cavalieri in Australia, fatto che assicurerà un flusso stabile di cibo fresco per i dragoni. Sarà questione di poco tempo e saremo nel bel mezzo di un terzo grande risveglio dei dragoni. Le condizioni climatiche stanno diventando ideali per loro. Si raccomandano ricerche più intense nel campo dei vestiti ignifughi e si raccomanda altresì di evitare i titoli onorifici. Tecnologia. Re-Energize Finance ha annunciato oggi la finalizzazione della fase 1 del test di installazione solare a Dorso di Mucca. La soluzione promette di rivoluzionare la raccolta di energia solare. Per massimizzare l'efficienza del sistema, l'inventore tedesco dottor Heinz Hüppera Agigler propone di piantare l'erba più gustosa in direzione est-ovest, così che le mucche seguono la strada ideale e mantengono i pallelli nel giusto orientamento. L'energia solare è convertita grazie ad un inverter speciale ed arriva via microonde al perimetro del campo. L'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, il CERN, ha finalmente trovato evidenza dell'esistenza della forza Jedi. Il risultato si deve al Collider Hadron, testato ad altissima energia. Gli scienziati confermano che la forza dà poteri ai fisici delle particelle. È un campo di energia creata da tutti gli esseri viventi, ci circonda, ci penetra e tiene insieme l'universo. Anche se per ora non si capisce bene la sua genesi, gli utilizzi pratici della forza sono numerosi. Sarà rivoluzionaria per le comunicazioni a distanza, per influenzare elementi e per far levitare oggetti pesanti, specialmente in paludi. Microsoft ha deciso di lanciare un nuovo smartphone con il sistema operativo MS-DOS. L'apparecchio vanta una camera ASCII di ultimo grido e obbedisce velocissimamente a comandi come DIR e Change Directory. Il sistema operativo promette di vincere nella categoria del più leggero e veloce sistema al mondo. Società. Notizie ad ultima ora da parte di Grazia. Alle 2.33 della scorsa notte, ore di Londra, Kate Middleton ha partorito la piccola Diana Elizabeth dal peso di 7 libbre e 5 onze, o più o meno 3,3 kg. Kate e William stanno bene. Ovviamente bisognerà aspettare l'annuncio ufficiale da parte del Palazzo Reale. Forse ci sarà anche una polemica tra la regina Elisabetta e Kate per il nome scelto, poiché rende omaggio alla defunta nuora, mai molto amata dalla proprietaria della corona. Viaggi. E nella categoria viaggi una notizia eccezionale che possiamo dare qui a TG Brussellando in diretta, siamo i primi a darla in anteprima mondiale, ed eccovi la notizia: se volete battere sentieri sconosciuti, recatevi a Sans Serif. Il Guardian ci ha anticipato ed è stato il primo a menzionare l'isola, ma si è ben guardato dal far sembrare la notizia verosimile. In effetti, quest'isola molto particolare rimane avvolta nel mistero. Secondo alcuni studiosi, Sans Serif corrisponderebbe alle terre bibliche di Abyss, cioè l'isola spostata dal suo luogo dove la bestia sorgerà. L'isola prende il nome da Sant Sharif, un indiano del X secolo che cercò di arrivare all'Himalaya da nord, dopo aver circumnavigato il mondo. Il motivo per cui cercava di passare all'Himalaya da nord è perché questa disperata impresa di circumnavigazione si era resa necessaria a causa del fatto che il sentiero classico di pellegrinaggio, appunto proveniente da sud, era stato occupato da un gruppo di monaci jainisti che fermavano ogni pellegrino ponendogli domande in merito alle sfide epistemologiche poste dalla Anekatavada. Durante il viaggio, però, di circumnavigazione, i compagni di St. Sharif vennero colti dal vento e trasportati fino all'attuale Golfo di Tilde, dove si stabilirono. Se volete vedere una vera Repubblica delle Banane, conoscere i miti del dio elefantino con le otto braccia, San Pantografia, conoscere i solenni preti Windings e assistere a simpatici giochi con stecche di bambù e fette di ananas, sbrigatevi. Il mio modo per arrivare all'isola è di soffrire un naufragio nelle vicinanze della medesima e lì le correnti vi porteranno direttamente a San Serif. Gli altri mezzi, devo dire, sono meno frequenti o addirittura assenti. E beh, abbiamo ascoltato il telegiornale di Brussellando, spero che vi siate un po' divertiti. TG Brussellando, grazie ragazzi, grandi. TG Brussellando. TG delle bufale, cioè ci teniamo a dirlo, e ci teniamo anche a dire che la maggior parte, cioè anzi tutte queste notizie sono state inventate da altri, quindi non siamo noi gli autori, sì, noi semplicemente sì. Li abbiamo dato. Quella un del TTIP era girata via email con un layout spettacolare che sembrava un comunicato ufficiale, alcuni ci hanno anche creduto, penso. Ah, potrebbe essere vero. Inventeranno qualcosa di ancora meno trasparente, sì, ma non siamo qui per criticare il TTIP. Piuttosto c'è una notizia fra le tante. Oh, io c'ho una breaking news, mi avevate chiesto il pesce d'aprile. Vada. Ma allora, ci sono due diverse teorie. Il primo dice che una tra le più accreditate lo colloca insomma la nascita della tradizione nella Francia del XVI secolo. Prima dell'adozione del calendario gregoriano, in Europa è usanza celebrare il Capodanno tra il 25 marzo e il 1 aprile, occasione in cui venivano scambiati pacchi dono. La riforma di Papa Gregorio XIII spostò la festività indietro al 1 gennaio, motivo per cui sembra sia nata la tradizione di consegnare dei pacchi a regalo vuoti in corrispondenza del 1 aprile, tra cui un pesce d'aprile che non voleva significare nulla. Un'altra ipotesi, forse più, diciamo, più plausibile, vede protagonista le prime pesche primaverili del passato. Spesso accadeva che i pescatori, non trovando pesci sui fondali nei primi giorni di aprile, tornassero in porto a mani vuote e per questo motivo erano oggetto di ilarità e scherno da parte dei compaesani. Questa è la seconda teoria. Altre avvengono anche diciamo in maniera più recente, ma le più storiche sono queste qua. Bene, abbiamo anche questo riferimento un po' colto al calendario gregoriano. Sì, perché questo affonda in effetti le radici prima del calendario gregoriano. Insomma, il calendario esisteva già ai tempi dei romani, esisteva anche prima e aveva però dei tempi diversi. Infatti ancora oggi i tempi diversi ci sono in Cina, dove il Capodanno si festeggia in momenti diversi, ci sono differenze anche nei paesi ortodossi. Sì, certo. Capodanno religioso. Lì nei paesi ortodossi sì, c'hanno due Capodanni. Il Capodanno religioso è un po' diverso, ma è leggermente spostato, sì. Mentre quello cinese è proprio spostato di molto. Tant'è che il 25 marzo, 1 aprile, sì, la festa, insomma, inizio coincide più o meno con l'inizio della primavera e quindi forse sarebbe questo veramente l'inizio dell'anno. La nascita nasce con la primavera e si muore con l'inverno, noi invece festeggiamo Capodanno in pieno inverno, quindi forse qualcosa di proprio dritto oh, giusto. Pensa se spostassero la festa di Capodanno in primavera, uno finalmente, cioè uno va a Capodanno, vuole star fuori, c'è la musica, fa un gran freddo, torna a casa, Dumaron, no? Se tu invece lo fai, festeggi in primavera, te la godi. Io non so, c'è un problema anche, devo dire che c'è un problema, come posso dire, visivo. In Inghilterra, per esempio, l'anno economico finisce a marzo. Vero, è vero. Non finisce anche quello giapponese. Vero. Anche quello giapponese non finisce a gennaio. È vero. Però in tutti i calendari il primo giorno dell'anno, cioè il primo numero che si trova in alto è il primo gennaio. Quindi noi siamo abituati a vedere il calendario come qualcosa di, lasciatemi dire, verticale, comincia col primo gennaio e finisce il 31 dicembre. Spostare il Capodanno visivamente vorrebbe dire mettere prima marzo e finisce a febbraio. Ci sarebbero personalmente avrei un problema di spostamento visivo, così come per l'ora legale si sposta un po'. Ci sono questi effetti visivi che non, di cui non teniamo conto, ma in realtà sono duri a morire. Io ogni tanto ci penso, per me il 25 marzo o comunque prima aprile è un quarto del calendario, cioè in un calendario immaginario è sempre un quarto, è già iniziato l'anno. nella mia testa l'anno è già iniziato proprio visivamente, quindi mi sconvolgerebbe un po', però capisco, e anzi io sarei assolutamente favorevole a spostare il Capodanno. Se no bisogna andare tutti in Brasile a festeggiare, che lì non c'è problema. Perché questa è una proposta degna, ragazzi, di essere considerata. In effetti spostarsi a Capodanno nei paesi caldi. Noi l'abbiamo fatto un anno in Australia, devo dire che fare avere Babbo Natale in bikini non è male, insomma, fa un certo che. Ma sul surf. Però è anche difficile prenderlo sul serio questo Babbo Natale, cioè sì, certo. Sì, la neve, Babbo Natale, le slitte in mezzo alla spiaggia, insomma, queste povere renne che schiantano. Anche i bambini australiani avranno diritto alla loro letterina e al loro regalino, no? Dai, anche se abitano in un periodo, Natale che abita in un periodo in cui fa caldo, non insomma, mai, gli arriverà col serio. Assolutamente, però il problema è che vedono anche i famosi, anche in Australia si vedono i film di Natale. Giusto, film di Natale sono tipo Mamma ho perso l'aereo. Sì, qualcosa di ambientato da un'altra parte, dove nevica tutta randa e invece lì ci sono 30 gradi. Allora uno dice, mamma, cos'è sta neve di Natale, l'albero di Natale? Vabbè, c'è qualcosa. Giorgio, un mio amico cileno, mi ha raccontato che quando era bambino negli anni 70, praticamente, siccome in Cile a Natale fa caldissima estate, per dare un'idea del Natale mettevano intorno agli alberi del cotton fioc, che faceva l'idea della neve, cioè una roba galattica. Che magari non vedevano neanche mai. Sì, mai vista, almeno dove era lui, mai vista. Bene, allora il calendario. Sono passati dal calendario, da quelle pesce d'aprile, ma la domanda che avevo in testa era la seguente, e mi ha lasciato un po' perplesso, proprio quella dei dragoni. Io ho paura dei dragoni, e secondo me si svegliano davvero, magari, chi lo sa, qualche dragone è nascosto da qualche parte. Adesso stiamo scoprendo... Gli fai bu, si prende paura lui. Una delle più recenti teorie sull'evoluzione della Terra parla della Terra palla di neve, cioè che in realtà il periodo della glaciazione non si è arrivato fino a metà, ma si è arrivato proprio fino all'equatore, cioè che la Terra a un certo momento è diventata completamente ghiacciata e che con l'avvento dei vulcani sia stata un'emissione di anidride carbonica nella Terra, si sia riscaldata la Terra e da lì, da quel momento, subito dopo la glaciazione, totale della Terra abbia cominciato la vita, e quindi abbiamo cominciato dagli organismi unicellulari, organismi pluricellulari. Quindi, per chi lo sa, magari i dragoni sono nascosti veramente da qualche parte, c'è la gente della Terra, del piano di sotto, che noi non abbiamo mai conosciuto, la Terra dentro è vuota, tipo, e c'è un popolo che ci stasera vive. George, torni a casa, entri in casa, stai lì 5 minuti, poi bussa uno alla porta, vai a aprire un dragone. Che fai? Beh, io non faccio niente perché non ho il sottotitolo onorifico, ma è finalmente la domanda. Invece pare che in Australia ci siano un sacco di nuovi cavalieri, cioè cosa vuol dire? Non lo so, ma secondo me, dato che questa notizia è davvero apparsa sul sito web di Nature, secondo me la persona in questione, lo scienziato in questione, avrà anche fatto un po' di ricerca, perché effettivamente è anche interessante cercare l'articolo, perché ci sono anche dei cenni storici su varie risorse testuali sui dragoni del Medioevo, eccetera. E poi cita questo problema, diciamo, che in Australia ci sono sempre più cavalieri che attizza i dragoni. Cioè, ci sono sempre più cavalieri, nel senso che cominciano, che ne so, a farsi investire, cioè investiture ufficiali da parte di chi? Sono della regina, loro sono comunque parte della Commonwealth. Ho capito. Finché diventano cavalieri australiani, si fanno investire, hanno loro come San Giorgio e il dragone, un grandissimo quadro. Sì. San Giorgio Drago, di Paolo Uccello. Il quadro con cui Paolo Uccello in qualche modo contesta la presenza della prospettiva, contesta la prospettiva come atto di riproduzione del reale, della realtà. Vabbè, ma queste sono altre storie, non parliamo di Paolo Uccello. Quanto ne sa Giorgio? E invece andiamo avanti, perché allora ho ben capito questo sui cavalieri, ma io vorrei fare dei commenti anche sulle altre notizie. Comunque, Giorgio, la più galattica era il cellulare MS-DOS. Il cellulare MS-DOS deve essere fantastico, sicuramente veloce. Ma voi l'avete visto? Ma c'è un'app? Cioè, Microsoft davvero? Ha effettivamente pubblicato un'app, che ovviamente è scaricabile soltanto dai cellulari Microsoft. E che funge da sistema operativo MS-DOS. Carino. Tutto questo fatto per il primo aprile. Ma invece avete visto che Google ha trasformato il Google Maps in un terreno di Pac-Man? Non avete... Galattico è stato il primo aprile. No. Praticamente tu aprivi Google Maps invece di avere la schermata normale, avevi una schermata dove avevi le vie che avevi cercato con Pac-Man che doveva mangiare i cosini e i mostracci che ti seguivano. Poi potevi uscire naturalmente, ma era carino. Pac-Man, una città da mangiare, mica male l'idea. E va bene, allora commentiamo adesso, perché adesso è arrivato il momento dei commenti, commentiamo la tecnologia dei pannelli solari sulle vacche. Ah, è fantastico. Ma se la vacca fa una... no. Ma no, quello sarebbe biomassa, bisogna okay. mettere dei sacchetti dietro. Per mi veniva in mente una canzone di Elio e le storie tese. Sì, anche a me. Quella della vacca del muro. Bravo. Sì, vabbè, ma a parte Elio e le storie tese e la vacca e il mulo... Ma mi scusa, come sì. la trasporta l'energia? No, c'è scritto, non sei stato attento perché l'energia solare viene convertita grazie a un inverter speciale che arriva via microonde al perimetro del campo. Ma l'inverter dove glielo metti nella mucca? Allora, qui stiamo degenerando, non so, l'inverter viene attaccato al collo. Ah, invece della campana. Con una campana e anche lui emette dei suoni, però io sto pensando... è che il dottor Heinz Upperhagigler è difficilissimo dire dottor Heinz quello del ketchup ha conosciuto delle vacche particolari, tipo le vacche tedesche, forse le vacche italiane che in genere io ho sempre visto in piedi, ma le vacche belghe che normalmente stanno distese, se hanno un pannello solare sul dorso lo schiantano. Bisogna scrivere una lettera al dottor Heinz che non funziona l'invenzione, cioè sì. Non funziona in Belgio, le vacche in Belgio stanno distese e sedute. Se tu chiedi a una mucca belga perché stai seduta, perché non ci dai una mano nel creare questa energia, ti risponde: désolé madame, je sais pas vous aider. E salutiamo i nostri amici belgi, noi viviamo in Belgio da un sacco di tempo e ci piace questo posto, ma ci piace, on sait pas vous aider, ci permettiamo anche di riderci sopra, on sait pas vous aider. E vabbè, allora abbiamo parlato di Zoroastro, abbiamo parlato dei dragoni, della tecnologia, questa qua la devi spiegare però, l'esistenza della forza Jedi, io non so se questo è un pesce d'aprile o è un pesce d'aprile il fatto che sia un pesce d'aprile. No, è un pesce d'aprile, purtroppo. Sicura che non sia una vera notizia? Quindi il pesce d'aprile è il fatto che viene data una notizia vera come pesce d'aprile? Sì, certo, ci stanno imbrogliando completamente perché nell'articolo ci sono anche delle foto di scienziati che stanno usando la forza Jedi, per esempio, per riscaldare il caffè. Questo non è male. O per mettere a posto i libri di scienza. Chi lo sa, la forza Jedi esiste, non abbiamo ancora trovato... la quarta forza, quindi stiamo cercando, magari troveremo quella che tiene insieme le cose. Ma un'applicazione potrebbe permettermi di far crescere i capelli, no? Forza Jedi con l'imposizione a distanza. No, perché no? E devi perché visitare no, la CERN, cioè, non capisci? Vai in Svizzera, fai un progetto, esatto. Ma stiamo parlando, abbiamo sempre parlato di uomini bionici, se ne parla molto di uomini bionici, ormai stiamo sostituendo tutti i pezzi di un uomo. Vuoi vedere che non riusciamo a risostituire il cuoio capelluto? Ah, si spera. Cioè, incredibile. Siamo ai limiti della scienza. No, quello va trovato per primo. Sono dedicati alle ossa, eccetera. Dopo non si vedremo sono il nostro regista con dei capelli del Bob Marley. Cioè. Tipo Rasta. Con i capelli Rasta e i boccoloni. Benissimo. E vabbè, allora, forza Jedi, io sono convinto che c'è. Magari si potrebbe chiamare... le speranze del neutrino, vediamo il bosone di bosone V, se riusciamo a trovarlo, magari sì, quello no, è la forza Jedi. Io ho lasciato Jedi. Anche fuori delle notizie perché ovviamente il Bosedi. Era difficile il cioè, Bosedi, per gli agi si candidava anche l'apertura della North Korea per il turismo. Si candidava anche forniscono quelli. Visti di sola entrata. Con uscita vietata, esatto, la possibilità di partecipare alla gara maratonica. Io invece voglio il commento, questo è l'ultimo, ma è perché, oh mamma mia, ma qui il tempo veramente vola a una velocità incredibile con gli aerei razzo. Volevo un commento del regista sulla Fiat Duna. Ah, la Fiat Duna, dopo aver rifatto la 500, aver rifatto, cavolo, non sarebbe male la Fiat Duna. Una delle macchine più brutte della storia, devo dire che... Erano uno col sedere. Uno il marito della sorella di mia nonna ce l'aveva, non scherzo. E la chiamava l'ammiraglia, vi dico tutto. L'ammiraglia d'una. Forse ce l'aveva a morte che i militari, chi lo sa. Ma non lo so, era una macchina veramente, non era un obbrobrio. Non era un obbrobrio, dai, era una uno con il sedere. Sì, ma una uno con il sedere fatto male. Cioè, sai, per non entrare a divagare sui sederi, quei sederi un po' strani, un po' bislacchi, non lo so, boh. Era una macchina bislacca ed era fatta in Brasile, se non erro. Aveva la pubblicità Sebastiao Lazzaroni, allenatore brasiliano della Fiorentina. Esatto, era fatta in Brasile e aveva una particolarità, questa ve la dico perché questa purtroppo la so, era che, sono, mamma mia, le 57, devo chiudere, la particolarità è che le sospensioni fatte in Brasile erano diverse da quelle fatte in Italia.